Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Ci sono stati 3 attentati al Cairo alla vigilia dell'anniversario della rivolta contro Mubarak. Uno degli attacchi è avvenuto con un'autobomba contro il quartier generale della polizia. Ci sono 5 vittime. Privatizzazione delle Poste, rinvio dei contributi INAIL, rientro dei capitali dalla Svizzera, riunione di governo ricca oggi dal punto di vista economico, nell'ultimo giorno disponibile per il pagamento di Minimu e Tares. Tensione sui mercati, in rialzo lo spread sia per la Spagna che per l'Italia, giù le borse con Milano che scende di quasi 2 punti percentuali e Madrid di oltre il 3%. Ancora scontro nel Partito Democratico sulla legge elettorale. Franceschini replica a Letta che dice le preferenze sarebbero un errore. Il Movimento 5 Stelle denuncia alla Boldrini irregolarità nella presentazione del cosiddetto Italicum. La coppia Errani vince, trionfa ancora agli Australian Open di tennis. Le due italiane ottengono la 4ª vittoria in un torneo del Grande Slam. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, notizie che se volete potete commentare al 349-238-6666, c'è la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. Apriamo però con una notizia che è stata appena battuta dalle agenzie e che riguarda la politica. Il Tribunale di Salerno ha dichiarato decaduto dalla carica il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, vice ministro alle infrastrutture, per incompatibilità con l'incarico di governo. Una sentenza emessa dalla prima sezione civile che ha accolto un ricorso dei parlamentari del Movimento 5 Stelle. Notizia appena arrivata, vedremo di approfondire nel corso della trasmissione, stiamo cercando di rintracciare i diretti protagonisti. Iniziamo però appunto da quello che sta succedendo in Egitto e partiamo dalla cronaca con la nostra Adriana Fracchi. Adriana. Sì, buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Sono almeno 4 le vittime e 80 i feriti in 3 diversi attacchi avvenuti oggi nella capitale dell'Egitto. Al Cairo è stato di massima allerta dopo appunto questi 3 attentati contro le forze di sicurezza avvenuti alla vigilia dell'anniversario della rivolta contro Mubarak. Il gruppo jihadista Ansar Jerusalem e i sostenitori di Gerusalemme ha rivendicato via Twitter la paternità del primo attacco, quello al quartier generale della polizia, dove si trovava anche il capo delle forze di sicurezza, che era l'obiettivo e che è rimasto illeso. Si tratta del primo attentato suicida nella storia recente della capitale egiziana, per il quale, come ha fatto sapere un alto responsabile del Ministero dell'Interno, sono stati utilizzati almeno 500 kg di esplosivo. Questa violenta deflagrazione ha causato anche danni gravissimi al Museo Islamico del Cairo, che ora è quasi completamente distrutto, e per l'archeologa egiziana Monica Anna si tratta di una vera catastrofe, di una grande drammatica perdita per l'Egitto e per il mondo intero. Nel secondo attacco, avvenuto nei pressi della stazione del metro di Bout, sono invece rimasti feriti dei poliziotti, ma non sembra vi sia stata alcuna vittima, così come nella terza esplosione causata da un ordigno artigianale posto nei pressi di un commissariato di polizia a Giza, lungo la strada che porta alle piramidi. Decine di cittadini si sono radunati nel luogo del primo attentato, hanno intonato slogan contro i fratelli musulmani, mentre questi ultimi hanno lanciato un appello a manifestare per ricordare la rivolta popolare che portò alla fine di Mubarak. Intanto sono state rafforzate le misure di sicurezza all'aeroporto internazionale del Cairo, al Ministero dell'Interno, nel distretto di Giza e davanti alle ambasciate britannica e statunitense. E quest'ultima, così come quella italiana, invita i suoi connazionali alla massima prudenza per il rischio di nuovi possibili attentati, sempre al Cairo. Ed è tutto. Grazie ad Adriana Fracchia, il commento di Ugo Tramballi. È difficile pensare a un modo peggiore per celebrare domani i 3 anni della rivolta di Piazza Tahrir. Una rivolta prima giovanile, poi nazionale, in nome di libertà e giustizia per tutti. La fotografia dell'Egitto 2014 è sconfortante oltre che drammatica. Un potere militare sempre più oppressivo, un terrorismo islamico sempre più aggressivo, i giovani di quella rivolta piena di illusioni in galera. I pochi dubbi che ancora rimanevano sulla candidatura presidenziale del generale al-Sisi, comandante delle forze armate, ministro della difesa, organizzatore del golpe popolare contro i fratelli musulmani, sono ormai sciolti. Gli attentati terroristici organizzati contro il suo potere gli stanno al contrario spianando la strada verso la presidenza. La gente ha paura e voterà per lui in un plebiscito alle elezioni che avrebbero dovuto svolgersi la prossima estate, ma che lo stesso al-Sisi ha deciso di anticipare a marzo. A questo punto, avendo a che fare con una lotta al terrorismo che la sua propaganda esalta in ogni occasione, al-Sisi non dovrà nemmeno compiere quel minimo gesto di opportunità istituzionale, di candidarsi cioè dimettendosi dalle cariche militari. Un generale in divisa e occhiali da sole come un comandante in guerra nel deserto si addice all'Egitto di oggi. Così l'Egitto, mentre prosegue in Ucraina la rivolta contro Yanukovych. Ci colleghiamo con Antonella Scott. Buongiorno Antonella, ci accompagni ormai tutti i giorni su queste vicende, eccoci. Buongiorno. Allora, quali sono le ultime? Quali sono le ultime oggi? Sì, è un'altra giornata surreale di protesta oggi a Kiev contro il governo Yanukovych, nella costante paura di nuove violenze. Ormai si rischia di scivolare in una guerra civile perché la speranza di trovare un punto di incontro col presidente si riduce ogni giorno di più, e lo ha fatto capire chiaramente ieri notte Vitali Klitschko, che è il campione di box che è diventato il più noto leader dell'opposizione. Dopo un incontro di 4 ore con Yanukovych, Klitschko è andato davanti ai manifestanti a dire che l'incontro non era servito a nulla e che non ha alcun senso negoziare con chi ha già deciso di imbrogliarsi. Ha però chiesto ai suoi di mantenere la tregua, di evitare nuovi scontri con la polizia, nella speranza che il Parlamento, che è stato convocato per martedì prossimo, approvi le dimissioni del governo, la principale richiesta della piazza. Ecco Antonella, però questo appello alla calma non sembra essere stato rispettato. Questa mattina c'è stata l'occupazione del Ministero dell'Agricoltura e nel frattempo si stanno unendo alla protesta delle frange estremiste di destra. Infatti è questo il problema, l'impasse sta rendendo sempre più difficile ai leader dell'opposizione tenere in mano la piazza, anche perché da una parte la gente è frustrata vedendo che dopo settimane di sollevazione, di dimostrazione, i risultati mancano, le autorità non si smuovono, e poi proprio come dicevi cresce la presenza di questi gruppi radicali estremisti che sono quelli che sono in prima linea negli attacchi alle forze dell'ordine. Diventa quindi sempre più difficile controllarli, diventa sempre più alto il rischio che la situazione sfugga di mano. E proprio Klitschko questa notte ha detto di temere che l'impasse porti a un bagno di sangue vero e proprio. Grazie ad Antonella Scott. Noi restiamo alle cronache dall'estero, che però ci riguardano più strettamente, perché dopo un anno di permanenza in Afghanistan è rientrato questa mattina in Italia il generale Giorgio Battisti, capo di Stato Maggiore della missione internazionale ISAF nel 2013. Sentiamo il generale intervistato da Valentina Furlanetto. Il primo pensiero è a quel mio carissimo amico e collega Gian Giacomo Calligaris, che ieri ha perso la vita in un modo così tragico. L'altro pensiero è che è stato un anno impegnativo, talvolta difficile, con qualche rischio. Per quanto riguarda l'Afghanistan, lasciamo un paese ancora con grosse difficoltà, che però spero sia riuscito, grazie anche al supporto della comunità internazionale e di tutti questi caduti, a capire che ora è ora della unità nazionale. Venerdì scorso c'è stato l'ultimo attentato con una ventina di vittime, quindi la situazione è ancora difficile. Beh, certo, non è tranquilla, ma sicuramente ci sono dei posti nel mondo che sono più pericolosi dell'Afghanistan, dove vanno sempre molti turisti italiani, tra l'altro. Io penso che si debba fare una netta distinzione tra il terrorismo e l'insorgenza. L'insorgenza, quella dei talebani vera e propria, è controllabile dalle forze di sicurezza afghane supportate dalle forze internazionali. Rimarremo a Herat dopo il 2014? Questa è una scelta che il nostro governo deve decidere in ambito comunità internazionale con l'Alleanza Atlantica. Gli orientamenti, ma però ripeto, deve decidere il Parlamento su proposta del governo, sono di rimanere a Herat se la missione avrà una consistenza superiore ai 12-15 mila uomini per tutta la comunità internazionale. Come dicevo prima, sarà un'assistenza di supporto, non più di combattimento, alle forze di sicurezza afghane. E veniamo alle nostre vicende, alle vicende italiane. Oggi è il D-Day, il Black Friday della finanza locale, come l'ha definito qualcuno. Prosegue il nostro viaggio tutti i giorni alle 7 e alle 13. Oggi, naturalmente, l'ultima puntata. Andiamo nei dintorni di Firenze. In Toscana, su 287 comuni, 127 hanno detto ok alla mini-IMU, cioè il 44%. Fra i capoluoghi di provincia, Siena, Grosseto e Livorno, in tutto sono circa 330.000 famiglie a dover pagare. I centri di assistenza CAF sono stati presi d'assalto per avere informazioni, soprattutto i primi giorni dell'anno, come ci spiega Andrea Simone, responsabile area CAF di Firenze e provincia. Noi stimavamo oltre 30.000 persone che potevano potenzialmente rientrare sulla mini-IMU, a oggi non si sono concretizzate. Il dubbio, questo è personale, è che ci sia forse stata una disaffezione da parte del contribuente rispetto a questa tassa, questa imposta. Vedremo nel futuro. E sentiamo allora cosa sta succedendo al CAF della CGR nel comune di Scandicci, vicino Firenze. I cittadini hanno dovuto fare i conti soprattutto con la scarsa informazione. Molti si aspettavano un bollettino da compilare e pagare o una comunicazione a casa. Era un formato, si guarda la televisione e hanno detto che il comune non l'avrebbe mandato i bollettini. E sono venuta a interessarmi, ho preso l'appuntamento e ho pagato. Sì, sono bravissimi. Una cosa, arrivi, sono formatissimi, in 3 minuti ti mandano via. C'era il sito del comune, fatto bene. Sono andata a vedere, l'ho compilato, però non ero sicura. Ho chiesto comunque l'aiuto qua del centro. Bisogna venire a prendere appuntamento, può pagare, può andare. Ha perso parecchio tempo? No, mi è andata piuttosto bene, un quarto d'ora ho fatto, però insomma. Gli utenti che si sono rivolti al CAF di Scandicci sono stati un centinaio al giorno. Ubaldo Cianciulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze. Ed eccoci con Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buongiorno Gianni. Buongiorno a voi. Allora, si chiude oggi quindi questo delirio fiscale che riguarda la Mini, IMU e la TARES. La prima domanda che ti voglio fare è: che cosa succede se qualcuno non la paga? Insomma, se il cosiddetto assalto ai CAF, che come si diceva prima sta diventando un luogo comune, non riesce? Se non si paga scattano i meccanismi classici, diciamo, di tutte le imposte locali, i meccanismi del ravvedimento. Nei primi 15 giorni c'è il cosiddetto ravvedimento sprint, cioè si paga pochissimo di sanzione. Passati 15 giorni si sale di uno scalino nelle sanzioni del ravvedimento, che però ci porta per i prossimi 3 mesi. Vuol dire che sono su importi che mediamente sono appunto modesti o molto modesti, si calcola a occhio una media intorno ai 40 euro, le sanzioni per i primi 15 giorni, per intenderci, sono del 2 per 1000 al giorno, quindi poca roba. E poi chiaramente il comune ha tempo i classici 5 anni per contestare l'imposta non pagata in tempo, e nel caso in cui arrivi la contestazione del comune prima che il contribuente si ravveda, cioè si penta e confessi le sue colpe fiscali pagando una mini sanzione, insomma, se ti becca il comune prima che tu ti autodenunci, la sanzione è più alta. Chiaramente parliamo di importi importi medi abbastanza bassi, e quindi non è il caso di lasciare invecchiare, diciamo così, la questione naturalmente. Quindi 2 settimane ad aggiungersi a tutto ciò, come dire, a questo grado di incertezza fiscale che ha generato la vicenda. Naturalmente ci sarà la nuova TASI, sulla quale già i comuni si stanno scornando, gli uffici di bilancio dei comuni si stanno scornando, e poi c'è anche la decisione, ne parleremo tra un attimo, che probabilmente arriverà oggi dal Consiglio dei Ministri, che riguarda le detrazioni fiscali. Sì, allora, sulle detrazioni fiscali appunto c'è questo, diciamo, chiamiamolo rinvio ad altra sede, nella speranza di trovare soldi ulteriori sulla spending review. Il problema è che ancora una volta oggi finalmente chiuderemo questo capitolo della mini IMU e della maggiorazione TARES, e questa roba tendenzialmente ce la dimenticheremo. Ma tutte le caratteristiche del fisco locale, e non solo, perché citavi giustamente le detrazioni, sono ancora tutte in aria e molto molto precarie, e quindi ci aspettano mesi di lavorio ancora una volta su un sistema fiscale che non trova pace. Grazie a Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Molti dettagli naturalmente sul quotidiano oggi in edicole, sul sito www.ilsole24ore.com, con anche la possibilità di fare calcoli se ancora non avete provveduto. Andrea Viali, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, è un Consiglio dei Ministri. Sì, parliamo di Consiglio dei Ministri adesso, come si diceva prima con Gianni Trovati. È molto denso, c'è parecchia roba, no? Sì, è così, è ricco di provvedimenti soprattutto economici, e all'ordine del giorno ci sono in particolare 2 decreti che serviranno ad avviare il processo di privatizzazione delle Poste, ma anche dell'ENAV, come ha rivelato stamattina il Ministro dell'Economia Saccomanni. Sentiamo le sue parole. Parte il processo di privatizzazione, parte in concreto con l'identificazione di 2 società che sono totalmente possedute dallo Stato. Il programma di privatizzazione, l'abbiamo detto, non è un programma che si esaurisce con queste cose, copre un periodo di tempo che sarà almeno di un paio d'anni, quindi diciamo man mano che siamo pronti a fare altri passi li annunceremo. Sarà dunque un processo lungo, dice Saccomanni. Sul mercato dovrebbe comunque finire il 40% del capitale delle Poste ed è un'operazione con la quale, secondo il Premier Letta, si dovrebbero ottenere almeno 6 miliardi di euro. Dal Consiglio dei Ministri oggi è atteso poi il via libera al rinvio di alcuni pagamenti INAIL da parte delle imprese. Questa è una misura che fa parte delle norme sul taglio del cuneo fiscale previste dalla legge di stabilità. Infine a Palazzo Chigi è previsto anche il varo delle nuove regole per il rimpatrio volontario dei capitali dall'estero. È tutto, Simone. Grazie Andrea Viali. Siamo anche in linea con Elisabetta Fiorito. Ci sei? Certo, eccoci a parlare qua. della legge elettorale. Allora aspetta, ti fermo perché anche qua, anche oggi, ancora grande confusione in merito. Abbiamo la viabilità e poi ci arriviamo subito dopo. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Tre attentati al Cairo, uno avvenuto con un'autobomba contro il quartier generale della polizia, ci sono 5 vittime. All'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, privatizzazione delle Poste, rinvio dei contributi INAIL, rientro dei capitali dalla Svizzera, forse qualcosa anche sulle detrazioni. Oggi ultimo giorno disponibile per il pagamento di mini IMU e TARES. Tensione sui mercati, in rialzo lo spread sia per la Spagna che per l'Italia, giù le borse, Milano cede in questo momento l'1,7%, Madrid è arrivata a cedere oltre il 3%. E veniamo adesso allo scontro, nuovo scontro a quanto pare all'interno del Partito Democratico sulla legge elettorale. Ti avevamo già salutata prima, Elisabetta Fiorito. Che succede oggi? Qual è la nuova puntata? Allora, la battaglia per le preferenze continua qui in Parlamento, perché dopo il sì alle preferenze del Presidente del Consiglio Enrico Letta, che ieri è intervenuto sulla 7, anche il nuovo centrodestra si schiera contro il veto di Forza Italia. Angelino Alfano ribadisce che collaborerà con Renzi e Berlusconi per la legge elettorale, ma quello che sta più sulle scatole ai cittadini, o almeno quello che è stato più sulle scatole riguardo al Porcellum, è il Parlamento dei nominati e le liste bloccate. Quindi Angelino Alfano spera che Forza Italia si ravveda. Non tutti nel PD però amano le preferenze. Qui si apre un altro fronte che i democratici sono spaccati. Per il ministro dei rapporti con il Parlamento Dario Franceschini sarebbe un errore reintrodurle oggi per i danni al sistema politico e alla sua trasparenza. Si tratta poi qui a Montecitorio per trovare un'intesa sulle modifiche al testo presentato in Commissione Affari Costituzionali. C'è stato anche un incontro tra Elena Boschi del PD e Denis Verdini di Forza Italia, nella sede questa volta di Forza Italia. Al partito di Berlusconi non sono piaciute le parole di Letta sulla riforma elettorale come un'entrata a gamba tesa. Per Renato Brunetta dice, insomma, Letta non deve mettere bocca su ciò che non gli spetta, perché ricordiamo, Simone, la legge elettorale la devono fare le forze politiche e non il governo, quindi i partiti e non il governo. Grazie Elisabetta anche per gli aggiornamenti di oggi, non dubito che torneremo a parlarne naturalmente nei prossimi giorni. Noi adesso veniamo all'inaugurazione dell'anno giudiziario in Cassazione con le dichiarazioni tra gli altri anche del ministro Cancellieri, ma non solo, attenzione puntata sulla giustizia e sulla situazione delle carceri. Monica Ceravolo, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. La cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario si è conclusa da pochi minuti. Indulto è la parola che più di ogni altra è risuonata stamattina in questo palazzo di giustizia. Indulto quale soluzione all'emergenza carceraria? Su questo punto sono tutti d'accordo, dal ministro della giustizia al primo presidente della Cassazione Giorgio Santacroce, che sentiamo. In attesa di riforme di sistema, oltre a quelle contenute nel decreto del dicembre scorso, che anticipano con piccoli passi e prudenti iniziative un'organica revisione della normativa in questa materia, dovrebbe adottarsi un rimedio straordinario che consenta di ridurre con immediatezza il numero dei detenuti. Per ottenere questo risultato non c'è altra via che l'indulto. Per quanto riguarda invece la fotografia dei reati, spiccano quelli legati alla crisi economica, a cominciare dal numero dei fallimenti, degli sfratti, delle cause di lavoro conseguenti ai licenziamenti da una parte, dall'altra un spropositato aumento del numero dei furti negli appartamenti, cause che intasano un sistema già oberato, 5 milioni i procedimenti civili pendenti, oltre 3 milioni le cause penali aperte. Per sbloccare questa situazione occorrerebbe la tanta auspicata riforma sostanziale della giustizia, riforma che però tarda ad arrivare. E per ora è tutto. Grazie Monica Ceraulo per questi aggiornamenti. Siamo sullo sport. Allora, innanzitutto una notizia che è la più recente, che è quella che arriva dalla Ferrari, perché la Ferrari ha scelto il nome della monoposto che correrà nel campionato del mondo di Formula 1 di quest'anno. Ma la cosa interessante è che l'hanno scelta i tifosi via internet. Sarà F14T, non particolarmente eccitante come nome a dire il vero. E però invece vogliamo parlare di tennis, perché questo è un fatto, la Vinci e la Errani continuano a stupirci, Carlo Genta. Ciao Simone, F14T, sì, 14 sarà il numero di Fernando Alonso, ma poi l'eccitazione arriva dalle vittorie e qui è tutta un'altra storia. Vittoria, appunto, Errani Vinci, quarto titolo dello Slam, si confermano la coppia numero uno in doppio del tennis mondiale. Partita intensissima, molto dura quella con Makarova e Vesnina, 6-4 per le nostre primo set, 3-6, e poi erano sotto nel terzo decisivo set 5-2 e sono riuscite a vincere 7-5, dunque hanno alzato questo Australian Open 2014, grandissimo risultato. Ma già che ci siamo, ce n'è un altro, perché Nadal ha battuto Federer in 3 set 7-6, 6-3, 6-3. A proposito, parziale Nadal Federer 23-10 nei confronti diretti per lo spagnolo. Giocherà in finale con Wawrinka. Quindi questa è la mattinata degli Australian Open, bellissima per noi, Simone. Grazie Carlo, ti ritroviamo naturalmente in tutti i convocati dopo le 14. Noi adesso torniamo ad accendere i riflettori su Modena, dove, come stiamo dicendo e raccontando da giorni, c'è stata un'alluvione che sta un po' passando sotto silenzio. Saluto Massimo Iasonni, buongiorno. Buongiorno a lei. È un avvocato e adesso spiegheremo perché l'abbiamo chiamato in onda. Innanzitutto qualche numero ve li ripeto sempre, perché giusto per chiarire la dimensione: ci sono 1800 imprese ferme, 35 chilometri in senso di lunghezza di territorio allagati, migliaia di ettari di terreni agricoli sostanzialmente al momento inutilizzabili, questo per l'esondazione del Secchia. Iasonni, ci sono degli imprenditori che si sono rivolti a lei, che appunto fa l'avvocato, per una class action? Si sono rivolte a me prima un gruppo di famiglie che sono cresciute nei giorni rappresentandomi non un disagio, un dramma come lei ha giustamente segnalato. Poi ho appreso che anche gli imprenditori, non so ancora perché io sono adesso a Forlì per un processo, ma credo di capire a livello di associazione loro in particolare, intendano partecipare a questa iniziativa in cui il mandato a me sta nell'investigare, nell'approfondire le responsabilità che noi crediamo siano istituzionali a più livelli. Istituzionali a più livelli, e quindi verso chi si potrebbe indirizzare? Immagino comune, provincia e regione. Questo è assolutamente prematuro dirlo e c'è anche un profilo di riservatezza, perché è mia intenzione collaborare strettamente con la procura locale. È indubbio che i miei clienti, le persone che io ho avuto di fronte in studio, molto numerose, non ritengono. Quante avvocato? Molte. Crescono, perché molti sono ancora in condizioni di difficoltà di non riuscire a venire a Modena, però io faccio un numero che può essere in crescita, non so, oltre le 100 persone. Oltre le 100 persone, quante imprese? Non glielo so dire, darei una risposta superficiale, bisogna che vada in studio e veda. Ma certo, si tratta tutte di gente, di persone e di imprese, agricole anche, che ritengono che non si tratti di cause accidentali o nutri o cose del genere. Grazie a Massimo Iasonni, legale di questa class action che probabilmente scatterà nei confronti, a questo punto supponiamo, degli enti locali e non solo. Saluto invece adesso Marco Causi, che è deputato del Partito Democratico. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, benvenuto ad Effetto Giorno. Che cosa è successo? Che si sta ragionando sul decreto legge destinazione Italia, si sta lavorando sul decreto legge destinazione Italia e il PD, per sua voce e non so per suo emendamento, ha deciso di proporre una cosa in merito alla questione delle assicurazioni auto, ossia utilizzare il metodo dei costi standard anche per la riparazione delle automobili. Ci spiega che cosa vuol dire, Causi, brevemente? Ma il tema è quello delle officine convenzionate o non convenzionate con le assicurazioni. Come sappiamo, già oggi alcune compagnie assicurative offrono delle polizze auto con un piccolo sconto se il contraente accetta poi di andare o di mandare il veicolo che lui stesso danneggia a riparare nelle officine convenzionate dalle stesse assicurazioni, perché così le assicurazioni ritengono di poter controllare meglio i costi di riparazione. Questo tema, che l'articolo 8 del decreto proposto dal governo renderebbe obbligatorio, ha fatto scattare, io credo non del tutto a torto, ampie proteste nel settore, perché naturalmente si crea una dinamica anticoncorrenziale tra le officine che sono convenzionate e quelle che non sono convenzionate. Allora la proposta che noi abbiamo messo sul terreno della discussione, vedremo poi nei prossimi giorni, è questa. Lasciando la facoltà. Sì, però dico, in questo modo in realtà non si abbassano i prezzi per gli automobilisti e per le assicurazioni? Sì, appunto, l'obiettivo ovviamente è abbassare il premio dell'RC Auto, che oggi in Italia è il doppio della media europea, però dall'altra parte, per lasciare libera concorrenza fra convenzionati e non convenzionati, l'ipotesi potrebbe essere questa, che se vado a un non convenzionato l'assicurazione paga a condizione che il costo sia commisurato a qualche elemento di preziario definito e vigilato a livello nazionale. Noi proponiamo dall'IVAS, peraltro era un po' così anche 20 anni fa, c'erano dei preziari con cui assicuratori e officine concordavano, quindi se stai dentro quel prezzo standard puoi anche andare da un'officina non convenzionale. Causi, ma non sarebbe stato meglio prevedere invece, mi scusi, che se io vado in quell'officina e quell'officina mi fa un prezzo inferiore a quello che fa l'assicurazione, a quel punto l'assicurazione è costretta anche a scegliere quell'officina? Non sarebbe stato più aderente ad un principio di concorrenza? Beh, ha maggior ragione. Il punto, cioè, poi perché è che stabilire dei costi standard? Questo non capisco. Dunque, allora, nel decreto, così come l'ha scritto il governo, il convenzionamento diventa un obbligo, no? E quindi ha maggior ragione lei, quello che lei dice va a maggior ragione nella direzione di offrire anche la possibilità di andare nelle altre officine a condizione proprio il prezzo sia più, lei dice più basso, io dico più basso, scusi, no? Ha maggior ragione se e perché ce ne deve essere uno standard? Questo non capisco, Causi. Perché quello che succede oggi è che così almeno dicono gli esperti del settore, tramite i prezzi formati dall'accordo fra periti e officine, quando non ci sono officine convenzionate, c'è un aumento dei prezzi, tende a veicolarsi una tendenza all'aumento dei costi. I costi sono molto aumentati negli ultimi anni perché c'è stato poco controllo. Le stesse assicurazioni hanno difficoltà a fare controllo e l'unico modo che vedono per fare controllo è avere le officine convenzionate. Se il controllo fosse tramite i prezzi, tutti potrebbero lavorare avendo a riferimento uno standard di prezzi. Grazie a Marco Causi, deputato del Partito Democratico, per essere stato con noi. Le auguro buona giornata. A chi ci chiede come Marco, sì, ma se lo sconto è del 2%, allora chi me lo fa fare? Magari che quell'officina è sotto casa, invece di essere una convenzionata con l'assicurazione che sta a 20 km di distanza. Pausa, tra un attimo la borsa, è una giornata tosta oggi sui mercati. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ci sono stati 3 attentati oggi al Cairo, alla vigilia dell'anniversario della rivolta contro Mubarak. Uno degli attacchi è avvenuto con un'autobomba contro il quartier generale della polizia. Ci sono 5 vittime. Attesa per il Consiglio dei Ministri di oggi, privatizzazione delle poste, rinvio dei contributi INAIL, rientro dei capitali dalla Svizzera. Questo all'ordine del giorno. Ancora scontro nel Partito Democratico sulla legge elettorale. Franceschini replica a Letta e dice le preferenze sarebbero un errore. Il Tribunale di Salerno ha dichiarato decaduto dalla carica il sindaco Vincenzo De Luca per incompatibilità con l'incarico di governo. Lui ha appena annunciato la presentazione di un appello. Veniamo alla borsa. Borse in diretta. È una giornata piuttosto pesante quella di oggi sui mercati, a partire dall'andamento dello spread, la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi a 10 anni, che è arrivato fino a quota 227 punti, ai massimi dall'inizio dell'anno. FTSE MIB giù di 1,5%, FTSE All Share altrettanto, negative anche le altre piazze finanziarie europee, in grossa sofferenza Madrid oggi. Isabella Tasso, Radio Core, Il Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Allora, giornata guidata da questo, naturalmente in Italia lo vediamo, il riflesso sui bancari come sempre, Ubibanca giù del 2,5%, Unicredit del 2,4%, Mediolanum del 2,24%, ma ci sono anche altri elementi, no? Sì, le borse, come dicevi, si avviano a chiudere la peggiore settimana da inizio anno, questo sulla scia di una forte ondata di vendite sulle valute e sui mercati dei paesi emergenti, questo dopo i nuovi segni di rallentamento della Cina e mentre cresce l'attesa per le decisioni della Riserva Federale la prossima settimana, che potrebbe stringere ulteriormente le misure di stimolo all'economia americana. È scattato il timore che possa ripetersi quello che è successo a giugno, quando un forte ribasso degli emergenti si era riverberato sui listini mondiali proprio prima che poco dopo che la Riserva Federale aveva segnalato per la prima volta l'intenzione di ritirare gli stimoli all'economia. Per questo sono deboli i titoli bancari, lo spread si è nuovamente allargato. Brevemente, Isabella, immagino che oggi i titoli del lusso, che sono tra i migliori, Yux più 0,14, Ferragamo meno 0,04, Luxottica meno 0,13, è semplicemente perché nei giorni scorsi sono calati molto, no? Sì, erano stati oggetto di realizzi perché avevano corso molto l'anno scorso, oggi sono gli unici che tengono, sono molto deboli invece i titoli più esposti sull'America Latina, proprio in seguito a questo ribasso dei mercati emergenti. Fiat cede oltre il 3%, risente dei timori appunto per l'andamento dell'economia sudamericana, Brasile, Argentina. Stesso discorso per Telecom, che accusa un ribasso superiore al 5%. Grazie Isabella Tasso, Radio Core, Il Sole 24 Ore, buona giornata. Grazie. Euro che quota 1,3703 su dollaro. Grazie Isabella. Buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Come ogni venerdì c'è l'inchiesta di Daniele Biacchessi. Questo venerdì parliamo della vicenda di Riina. Con chi sta parlando, dottor Riina, mentre viene intercettato durante una passeggiata con il boss pugliese Lo Russo nel carcere speciale di Opera durante l'ora d'aria? E soprattutto, a chi sta inviando segnali il capo dei capi? C'è qualcosa di sconcertante in quelle intercettazioni. Riina sembra parlare a soggetti terzi, sapendo di essere in qualche modo ascoltato. E che cosa dice? Molto per uno che fino al 1993 era giudicata la mente operativa della strategia stragista di Cosa Nostra, forse troppo, perché Riina non è un picciotto qualsiasi nella scala gerarchica mafiosa. Lui è l'inventore del colpo al cuore dello Stato, l'organizzatore della strage di Capaci, dove vengono uccisi il giudice Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo con gli uomini della scorta, l'eccidio di Via D'Amelio a Palermo, in cui perdono la vita il magistrato Paolo Borsellino e la relativa protezione. Dice Riina: quando ho sentito alla televisione che il generale Dalla Chiesa era stato promosso prefetto di Palermo per distruggere la mafia, a un certo punto ho detto: prepariamoci, mettiamo tutti i ferramenti, cioè le armi, a posto, tutte le cose pronte per dargli il nostro benvenuto. E ancora: perché questo Di Matteo, dice Riina, non se ne va? Gli hanno rinforzato la scorta, e allora se fosse possibile ucciderlo, un'esecuzione come a quel tempo a Palermo, con i militari. E poi Riina racconta a ruota libera come un fiume in piena di Berlusconi, e dice: noi su Berlusconi abbiamo un diritto, sapete quando? Quando siamo fuori lo ammazziamo, ma non lo ammazziamo alla fine perché noi stessi non abbiamo il coraggio di prenderci il diritto. E ancora parla di Andreotti, Martelli, Falcone, di Bin Nennu Provenzano e dei fratelli Graviano, che critica duramente. Secondo il procuratore di Caltanissetta Sergio Lari, che indaga sulle minacce rivolte da Riina ai PM del processo per la strategia Stato-Mafia, quelle lanciate dal carcere da Totò Riina vanno prese sul serio. Ora bisogna stabilire quali siano fuori dal carcere i soggetti che abbiano eventualmente ricevuto ordine da parte di Riina o ritengono di condividere le valutazioni che Riina sta facendo in ordine all'opportunità di proseguire in quello stragismo di cui è stato protagonista negli anni 92-93. E aggiungiamo noi, bisogna stabilire qual è il grado di isolamento del 41 bis che si dovrebbe adottare contro personaggi tipo Totò Riina. Perché di due l'una, o Riina è stato colto da un impeto improvviso di loquacità, ma non credo proprio, oppure, cosa più probabile, le confessioni del boss celano una pista suggestiva, un progetto inquietante e ancora tutto da svelare. Così il nostro Daniele Biacchessi, notizia ve l'abbiamo data in apertura di Effetto Giorno, incompatibilità con la carica di governo. Il Tribunale di Salerno ha dichiarato decaduto dalla carica di sindaco Vincenzo De Luca. Tutto questo è avvenuto su iniziativa di su un ricorso di parlamentari del Movimento 5 Stelle, tra loro c'è Silvia Giordano, che è deputata del Movimento 5 Stelle e salernitana, tra l'altro. Buongiorno Giordano. Buongiorno a voi. Allora, immagino la vostra soddisfazione, questo insomma nemmeno me lo deve dire, però De Luca ha detto che farà appello e che dice l'ordinanza in base alla legge 150 dell'1/9/2011, articolo 22,8, resta pertanto sospesa. Quindi in sostanza De Luca resta sindaco. Sì, vabbè, in sostanza ormai la legge è totalmente dalla nostra parte, lo era anche prima, indipendentemente dal ricorso. Lui ha voluto far finta di niente, abbiamo fatto il ricorso, ci hanno dato pienamente ragione. Ora veramente sarebbe stato il caso, per dimostrare almeno il minimo di dignità, almeno comportamentale, di mettersi o comunque di aspettare questa sentenza. Evidentemente continuiamo a sopravvalutarlo. Oltretutto abbiamo fatto anche un question time con la Commissione Trasporti in aula, dove il Ministro Lupi ci chiede anche lì pienamente ragione, dicendo che tanto non saranno problemi, perché con l'antitrust ha detto che doveva decidere comunque entro il 30 novembre, cosa che poi non è mai avvenuta. Abbiamo tutte le carte dalla nostra parte. E quindi contate sostanzialmente di vincere anche in appello, no? Contiamo, sì, ma in realtà è proprio chi ci dovrebbe rappresentare il problema, è sempre un fatto anche etico-morale, oltre che in questo caso da un punto di vista giuridico, perché se le persone sono così legate non solo a una poltrona, ma alla doppia poltrona, vuol dire che è veramente grave. Sento una cosa, sì, lei dice una questione morale, non è una questione giuridica, però insomma ripeto. No, è anche giuridica. È anche giuridica. Assolutamente giuridica, abbiamo tutta la legge dalla nostra parte, l'incompatibilità è certa. Ripeto, e contate appunto di vincere anche. Certo. Siete convinti di questo? Va bene, io la ringrazio. Grazie a Silvia Giordano, deputata del Movimento 5 Stelle. Abbiamo cercato subito prima della trasmissione di raggiungere, insomma, durante la trasmissione, di raggiungere anche Vincenzo De Luca per capire qual è la sua posizione, ma non siamo riusciti a rintracciarlo. In questo momento probabilmente vuole anche parlare solamente per comunicati. Ci fermiamo qua. C'è una pausa, magari più tardi nel pomeriggio, insomma, riusciremo a reperirlo. C'è una pausa, c'è la viabilità e poi ci ritroviamo come sempre con Mario Platero e America 24. Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Tra le notizie in primo piano, ve l'abbiamo detto, ci sono i tre attentati al Cairo alla vigilia dell'anniversario della rivolta contro Mubarak, e uno degli attacchi è avvenuto con un'autobomba contro il quartier generale della polizia. C'è la riunione di governo di oggi con la privatizzazione delle poste, il rinvio dei contributi INAIL e il rientro dei capitali dalla Svizzera. Lo scontro sulla legge elettorale, ancora sulle preferenze e ancora all'interno del Partito Democratico. E poi Vincenzo De Luca, ve l'abbiamo raccontato poco fa, è decaduto dalla carica di sindaco per decisione del tribunale, farà appello. Tra le altre notizie di oggi c'è sicuramente la visita del presidente francese Hollande al Papa. La visita in Vaticano è arrivata nel momento più difficile per il presidente francese. Al centro delle cronache, per la sua storia con l'attrice Julie Gayot, al minimo nei sondaggi, e che a Roma ovviamente è arrivato senza la compagna Valérie. Al Papa, i cattolici francesi, prima dell'incontro, hanno fatto arrivare una petizione, più di 100.000 le firme, per chiedergli di esprimere ad Hollande tutto il loro disagio nei confronti delle ultime scelte adottate dal presidente. Il matrimonio gay, la recente modifica alla legge sull'aborto, il cui iter è stato semplificato, l'annunciata legge sull'eutanasia. Argomenti scomodi per Hollande alla ricerca di voti anche dell'elettorato cattolico, a pochi mesi dalle elezioni amministrative ed europee. Più semplice l'intesa su temi di politica estera, dalla pace in Africa al conflitto in Siria. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è il momento di Mario Platero e di America 24. America, America, America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, oggi vorrei affrontare una serie di notizie tra virgolette di cronaca nera, a partire dall'arresto di ieri a New York del boss mafioso della rapina del secolo, un grande furto del 1978 al JFK, l'aeroporto di New York, che poi è stato raccontato da Martin Scorsese nel film di grandissimo successo Goodfella, Quei bravi ragazzi. L'arrestato si chiama Vincent Asaro, è stato trovato nella sua casa di Howard Beach, dove viveva tranquillamente ormai da qualche decennio. We always called each other good fellas. Like you'd say to somebody, you're gonna like this guy, he's all right. He's a good fella, he's one of us. Ecco, dall'arresto e dal ricordo di quella rapina del 78 al film, vi ho fatto ascoltare uno spezzone del film Goodfella, basato sulla reale vita, tra l'altro, del pentito Henry Hill e sul romanzo che poi ha scritto subito dopo Nicola Spileggi, perché Nick Spileggi ha scritto questo libro che ha fatto poi da punto di riferimento per il film di Scorsese. E dunque, vi dicevo, Asaro è finito in manette in questa sua casa di Howard Beach, era un membro della famiglia Bonanno affiliata a Cosa Nostra. Questo furto clamoroso, è una delle più clamorose rapine della storia americana, era stato organizzato da una banda che è riuscita a rubare, pensate, 6 milioni di dollari in gioielli, orologi, denaro contante, insomma tutta merce immediatamente trasferibile in cassa, dalla cassaforte della Lufthansa. La banda non si aspettava che ci fosse un bottino così enorme. Pensate che, se dovessimo fare i calcoli, quel che valeva oggi quello che hanno rubato allora, stiamo parlando di 20 milioni di dollari. Il bottino poi non è mai stato ritrovato, però c'è stata una coda di questa storia, perché uno dei banditi che aveva un po' architettato il colpo era il mafioso irlandese Jimmy Burke, che era invece affiliato con la famiglia lucchese. E questo Burke cosa ha fatto? Ha cominciato a identificare, a scovare, a trovare i suoi complici e li ha ammazzati uno per uno per tenersi poi il bottino. Asaro è uno dei sopravvissuti e non è l'unico che poi è finito in manette in queste giornate che continuano a essere gelide, freddissime qui a New York. Con lui, in luoghi diversi e con accuse diverse, sono stati arrestati altri 4 uomini, tra cui suo figlio, tutti con sospetti di legami mafiosi. Ecco, devo dire che mi ha colpito questa storia, perché se ne parlava qualche tempo fa con Antonio Monda, quando discutevamo del film The Wolf of Wall Street, l'ultimo film di Scorsese, e Monda diceva, beh, qui Scorsese ritorna ai vecchi tempi, ritorna a Goodfella, che è veramente un film che ha lasciato il segno. Però la dinamica di quella rapina, devo dire, erano altri tempi, è ben diversa dagli atti di violenza che abbiamo adesso. Questa rapina è stata compiuta in modo impeccabile, non c'è stata una vittima, all'aeroporto di New York non c'è stato un morto. Oggi purtroppo negli aeroporti, nei cinema, nei luoghi pubblici temiamo sempre che ci sia un attentato, e proprio negli ultimi giorni ci sono state le notizie di cronaca che ci danno la misura di quanto le cose siano cambiate rispetto allora, di quanto ormai la violenza sia dappertutto. Morning in a deadly movie theater shooting in Florida, authorities say the gunman is a retired police captain. Per esempio, l'episodio di Chad Olson, 43 anni, con una figlia di 22 mesi, è andato al cinema Grove di Tampa per vedere Lone Survivor, grande film, tra l'altro un film di guerra in Afghanistan. Cosa ha fatto? Ha cominciato a mandare dei text message perché la sua bambina era malata, era al cinema con la moglie, voleva verificare che tutto andasse bene con la babysitter. Quello seduto dietro di lui gli ha chiesto di smetterla perché il film non era ancora cominciato, ma lui voleva vedersi le anteprime. E lui gli ha risposto un po' male, quello ha chiamato la maschera non è venuta. A un certo punto c'è stato un piccolo scambio verbale fra i due e il signore che era seduto dietro ha tirato fuori la pistola e lo ha ucciso sul posto. Pensate, perché mandava dei messaggi di testo in un cinema. L'assassino si chiama Curtis Reeves, 71 anni, ed era addirittura un capitano della polizia in pensione. The clothing and the human remains were found just down below from where we're standing, close to the water. You can see a Zodiac boat. A New York l'altro giorno sono stati ritrovati i resti di un ragazzo autistico di 14 anni che era scomparso all'uscita di scuola a Queens il 4 di ottobre, scomparso, non se ne è saputo più nulla. Proprio l'altro giorno la notizia dominante sui giornali e purtroppo i resti di questo ragazzo che era stato seviziato. Altra storia, un ebreo ortodosso che è stato bruciato, è stato prima rapito perché i rapinatori sapevano che aveva del contante addosso. A Brooklyn si chiamava Menachem Stark, 39 anni, una famiglia impeccabile, un uomo generoso che faceva filantropia, donava denaro. Lo hanno rapito perché sapevano che aveva del contante in tasca, ma non gliel'hanno soltanto rubato, lo hanno ucciso e poi bruciato dentro un bidone della spazzatura. America 24. I have real concerns about the safety. You know, the Russians have not been fully cooperative on a security. Le Olimpiadi di Sochi preoccupano gli Stati Uniti. A poche settimane la tensione a Washington per possibili attentati è aumentata molto. C'è stata una telefonata tra Putin e Barack Obama. Barack Obama ha messo a disposizione una serie di tecnologie avanzate per aiutare la Russia a cercare di giocare d'anticipo su possibili attentati. E come misura di precauzione il Pentagono, questa è una notizia di ieri, ha inviato due navi da guerra nel Mar Nero perché potrebbero servire nel caso fosse necessaria una evacuazione degli americani. Ecco, queste preoccupazioni non sono casuali, sono aumentate dopo gli attentati che abbiamo commentato anche qui su Radio 24 a Volgograd, che hanno provocato la morte di 34 persone. Molti dicevano possono essere così un avvertimento proprio in funzione dei giochi olimpici di Sochi. Ecco, detto questo, il controspionaggio russo è attivissimo, ci sono telecamere dappertutto a Sochi e dunque c'è una situazione di controllo dove, insomma, in teoria neanche uno spillo dovrebbe poter passare. Ma come si dice in inglese, better be safe than sorry. Meglio essere sicuri che pentirsi per non aver preso tutte le precauzioni possibili. Sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com e su Twitter @MarioPlatero ed eccoci alla canzone del giorno. Continuiamo con le anticipazioni dei Grammy Awards che si terranno domenica sera. Tra i favoriti per la migliore canzone c'è Lord con Royals. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy, but every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a run in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money, but every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care, we're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care, we aren't caught up in your love affair. Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. Ed è tutto anche per Effetto Giorno, un ringraziamento come sempre a Mario Platero. Gli altri ringraziamenti: Gianmarco Ferronato in regia, Laura Faggin in assistenza e in redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre e tutti voi per l'ascolto. La nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, poi mi trovate su Twitter naturalmente Simone Spezia. Ci risentiamo lunedì alle 13 con Effetto Giorno, mentre invece ci risentiamo tra un attimo con il giornale radio.